Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1870, il Concilio proclama l'infallibilità papale. Le note di questa marcia, scritta da Charles Gounod in onore dell'anniversario dell'incoronazione di Papa Pio IX, sono, pare, piaciute moltissimo a Papa Mastai. L'11 aprile 1869, in occasione del giubileo sacerdotale del Papa, sono risuonate in piazza San Pietro durante uno straordinario concerto delle sette bande musicali pontificie. A Roma sono giorni strani. L'apertura solenne del Concilio Vaticano, il primo dai tempi di quello tridentino chiuso nel 1563, ha riportato la capitale della cristianità cattolica al centro della scena mondiale. Il tempo pare quasi sospeso, come se le controversie politiche, le tensioni tra Francia e Prussia e il rischio che una guerra tra i due stati favorisca la fine del potere temporale a vantaggio dell'Italia non contassero nulla di fronte al valore del Concilio. Di fatto è così. Questo concilio, voluto fortemente da Papa Pio IX dopo le discussioni suscitate dalla sua pronuncia sul dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, ha preoccupazioni teologiche molto serie. Che queste poi abbiano anche conseguenze politiche è, per il pontefice, di importanza solo secondaria. La preparazione del concilio è stata molto approfondita. Al centro del confronto degli 800 padri ci sono l'adeguamento della dottrina ecclesiastica, il ruolo del Papa, gli errori del razionalismo, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Il Papa, è chiaro, chiede al concilio di confermare solennemente le condanne contenute nel sillabo e la sua autorità nel definire le verità di fede, cioè i dogmi. Fino a Pio IX, infatti, i dogmi erano stati proclamati solo dal concilio stesso. Il concilio tuttavia non è parso finora un consesso obbediente ed ossequioso verso il pontefice. Senza contrapporsi ha marcato la sua autonomia. Lo schema preparatorio sulla fede e sugli errori del razionalismo è stato bocciato. Un colpo per Pio IX, che pensava a una rapida approvazione, ma anche la conferma che il concilio non sarà una semplice parata, il che per il Papa è comunque importante. Un nuovo schema sul contenuto della fede cristiana è stato presentato all'Assemblea Conciliare il 18 marzo di questo 1870 e il 12 aprile, proprio il giorno dopo il concerto che avete ascoltato, è stato approvato dal Concilio con 667 voti favorevoli, senza astensioni né voti contrari. Il 24 aprile la Costituzione dogmatica Dei Filius sulla fede cattolica è stata approvata. La discussione ora si sposta sulla Chiesa e in particolare sul ruolo del Papa. La definizione di infallibilità papale non era nell'ordine del giorno ufficialmente, ma è ben presto entrata al centro del dibattito. Ora si sa che una bozza è stata preparata. Sancisce appunto che il romano pontefice è assistito dall'infallibilità divina quando pronuncia delle verità di fede ex cathedra, in forma di dogma. Una cosa che la Chiesa aveva sempre considerato suo patrimonio, ma che nessun pontefice aveva mai voluto stabilire definitivamente. Pio IX sì. E questa scelta, che ad alcuni pare controverso, almeno poco prudente, cambierà la Chiesa, inevitabilmente. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.